Soundcheck, il suono della musica, di Gegè Telesforo. Ma da quanto tempo sta lavorando sul pianoforte? È un bel po', un bel po'. Il pianoforte è uno strumento che ci vuole un po' per accondarlo. Però noi siamo pronti per andare in onda. Noi siamo pronti. Anzi, mi sa che siamo già in onda. Esatto, siamo già in onda. E perché non mi hai avvisato, Bomarzi? Che ti tengo a fare allora? Mi sono distratto. Fammi salutare. Buonasera a tutti, ben ritrovati qui dal Groovemaster Studio per il soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Se sentite delle note di pianoforte in sottofondo è perché l'esperto di pianoforte, il famoso accordatore di fama internazionale, lasciatemelo dire, Thomas Dillo, sta finendo il suo lavoro, sta facendo praticamente il check finale sul nostro strumento, perché ultimamente lo abbiamo suonato abbondantemente con vari pianisti che hanno frequentato il nostro studio, quindi dovendo ripartire con la produzione abbiamo sempre bisogno della sua collaborazione, della sua supervisione sullo strumento. Anzi, io farei una cosa a Bomarzi, Riccardo Bomarzi, il nostro ingegnere del suono, che continua a razzolare all'interno del Groovemaster Studio mettendo in ordine, perché quando passano i musicisti è un po' come se passasse in uno studio Attila, no? Esatto. È vero? Quindi ho visto che è tutto in ordine, grazie. È tutto in ordine, perfettamente. Ecco, la cosa che odio di più sia negli studi di registrazione, ma soprattutto sui palcoscenici quando si fanno i concerti, è quella rete di cavi, esatto. Delle alghe che stanno sul palco. Invece a me piace salire su un palco e capisco subito il service, i fonici e gli ingegneri del suono a che livello sono dall'ordine che si trova sul palco. L'ordine sul palco è fondamentale. Ecco, quando il cablaggio è ordinato significa che stai lavorando con dei professionisti. C'è tutta una struttura da tirare avanti. Un giorno Bomarzi dedicheremo una puntata al cablaggio. Esatto. Come si fa un cablaggio corretto. Lui ancora non lo sa, ma vorrei approfittare della sua presenza per dedicare la nostra puntata non solo al pianoforte, perché nella playlist ho inserito alcuni dei miei pianisti preferiti, senz'altro anche alcuni dei pianisti preferiti dai radioascoltatori di Radio 24, ma dedicare la puntata allo strumento e soprattutto alla funzione di questo personaggio mitologico che è l'accordatore di pianoforti, approfittando quindi della presenza di Thomas Dillo. Thomas, hai finito? Sì. È andato? Come va? Bene. Abbastanza bene. Va bene, allora io direi di fare una cosa. Guarda, faccio così, faccio partire subito. Ti piace Oscar Peterson? Decisamente sì. Allora, questo album è registrato nel 1964, intitolato We Get Request, ovvero accettiamo richieste, con Ray Brown naturalmente al contrabbasso e Thigpen alla batteria. È stato uno dei miei dischi preferiti quando ero bambino, lo comprò mio padre, io impazzì e credo che forse per colpa di questo disco mi sono avvicinato e poi innamorato al jazz, che ancora oggi è una musica con un linguaggio importantissimo per tutti i musicisti. Il brano si intitola Goodbye JD, una composizione di Oscar Peterson per aprire il soundcheck di questa sera. Thomas, tu sei il protagonista, lo sai? Goodbye JD, una composizione originale di Oscar Peterson realizzata nel 1964 in studio con Ray Brown e Ed Thigpen alla batteria. Che trio, che swing! E oggi parliamo del pianoforte, ma soprattutto vorrei approfittare della presenza del mio amico Thomas Dillo. Sai che io ho imparato il tuo cognome da pochissimo, perché per me tu sei da sempre Thomas l'accordatore. migliore. Intanto, Thomas, io ti ringrazio perché hai fatto un bellissimo lavoro sul mio pianoforte. Io lo dico spesso, ho un pianoforte verticale, ho anche raccontato che lo abbiamo recuperato insieme proprio quasi in una cantina, e poi il tuo lavoro ha permesso di renderlo operativo, e con questo pianoforte mi sono permesso anche di registrare diverse operazioni discografiche. Fatto sta che tu fai questo lavoro da quanto tempo? Da quasi 40 anni. Da quasi 40 anni. Ma come si diventa accordatori? Perché l'obiettivo è quello di diventare dei pianisti e poi... No, no. Ognuno ha il suo caso specifico. E il tuo qual è? Caso, proprio caso. Niente, volevo entrare nel campo della costruzione e riparazione di strumenti. E ho cercato a Monaco di Baviera in vari sull'elenco telefonico eccetera, ho trovato alla fine l'idea era prima riparazione di flauti traversi, che era il mio strumento, che anche mio padre era primo flauto di un'orchestra sinfonica. Quindi tu nasci come musicista? Come figlio di musicista, sì. Gran figlio di musicista. E perciò poi dal flauto, che era molto difficile, piccole aziende familiari così, ho provato di entrare nel mondo dei organi di chiesa, dove ci sta sempre la cosa del flauto anche, no? Certo, delle canne, certo. E da lì alla tastiera era poi il passo successivo, e ho avuto l'occasione di fare un apprendistato a Monaco di Baviera, preso una quindi casa stiamo parlando di 40 anni fa, mi stai dicendo. Sì, 40 anni fa non esistevano, nel 78 non esistevano gli accordatori elettronici, perché vorrei dire agli amici che oggi forse la tua professione in parte si è semplificata perché la tecnologia ha aiutato molti musicisti, molti studi di registrazione, insomma da un punto di vista tecnico alcune cose, alcune operazioni nella musica si sono semplificate rispetto al passato. Fatto sta che se sei bravo devi saper suonare, se sei bravo devi saper accordare in maniera impeccabile. Però oggi con gli accordatori elettronici ci sono delle app, forse il vostro lavoro si è semplificato. Quando un accordatore diventa bravo, ecco. Quando magari si è fatto 10.000 accordature o 20.000. Certo, tu mi dici con l'esperienza. Sì, allora entra questa sicurezza che in nessuna fase, in nessun momento ti trovi in difficoltà. Senti, tu provi la stessa emozione ad accordare il pianoforte, diciamo, a utilizzo casalingo da studio, o quello posizionato nel palcoscenico, sul palcoscenico di un grande teatro che sai che poi verrà utilizzato da un grande musicista? C'è lo stesso tipo di rapporto? C'è una cura diversa? Perché a me sembra che stai attento ai dettagli su qualsiasi strumento tu poi ti trovi a lavorare. No, non fa nessuna differenza. Sul palcoscenico magari c'è la componente stress, diciamo problemi di tempo che devi concludere. E poi c'è anche il giudizio del musicista, no? Sì, anche se è secondario, più che altro è un rapporto tra te e lo strumento. Ecco, io volevo proprio dire questo, che sì, la elettronica aiuta molto, ma ti fa anche perdere completamente il senso rapporto. Capisco. Sentire, cioè entrare in rapporto con... Proprio il rapporto di empatia con lo strumento. Sì, del suono, delle onde, di queste onde di interferenza in un intervallo. Va bene, ti dispiace se parliamo delle onde di interferenza fra un po', perché voglio farti sentire un'altra cosa. Non so se conosci questo brano, un successo, ecco, sento il pubblico in sottofondo, il nostro Riccardo Bomarzi lo sta mettendo già in onda, è una registrazione live 1965, e qui è riconoscibile perché si tratta di Ramsey Lewis che dà vita alla sua versione live di The In Crowd, il brano di Bill Page, grandissimo successo, qui in versione dal vivo, una versione storica oramai, con L.D. Young al contrabbasso e Red Holt alla batteria. Questo è il sound check di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gegè Telesforo. E oggi parliamo del pianoforte, ma anche della figura professionale dell'accordatore, importantissimo per lo strumento, importantissimo per i concertisti che devono affrontare ogni sera strumenti diversi, approfittando proprio della presenza nel nostro Groovemaster Studio del mio amico Thomas Dillo, accordatore di professione, ce l'ho detto, da più di 40 anni ha iniziato questo lavoro per la passione che ha sempre avuto per gli strumenti. E qui lo strumento, il pianoforte, è stato suonato in questa versione di Overjoyed di Stevie Wonder, tratto proprio da un album intitolato Two for Wonder, dal meraviglioso Dado Moroni in compagnia del sax tenore di Max Ionata. Allora Thomas, quali sono i passaggi chiave proprio per rendere un pianoforte operativo al 100%? Cioè, quando tu ti trovi un pianoforte, oltre ad aprirlo, smontarlo completamente, prima dell'accordatura, quali sono i passaggi chiave? Ma in genere mi chiedono l'accordatura e perciò mi occupo di questo. Poi chi invece vuole intervenire sulla qualità del suono, c'è poi vari metodi per intervenire sulla qualità del suono, lavorando principalmente sul martello, sul feltro del martello, ma sulla regolazione. Come si lavora sul feltro del martelletto e a che cosa serve? Principalmente con l'intonatore, praticamente un porta aghi che permette di punzecchiare. Quindi c'è la punzecchiatura con questo ago del feltro del martelletto. Sì. E questo rende il suono un po' più caldo, può andare nelle due direzioni, si può sia rendere più brillante, più vivo, o più morbido, più dolce, insomma si può intervenire in molti modi. Un pianoforte che da un punto di vista meccanico sta messo discretamente, quanto tempo ti prende per l'accordatura completa? Ma un'accordatura può varia. Durare tra un'ora e due ore, secondo. Un'ora e due ore. Se sta abbastanza bene, più un'ora che. Quando invece molto. Quasi la maggior parte dei casi trovo strumenti calanti o perché non sono stati accordati da diversi anni e gradualmente se ne la tensione delle corde si perde e scende di tono. Perciò c'è quasi sempre l'80%. Almeno c'è da fare prima una preaccordatura, portarlo a livello desiderato, che in genere è qualcosa tra i 440 e 443 Hz qui in Italia. Ecco, che è l'accordatura classica, di solito si mettono a 4,40, cioè l'accordatura anche degli strumenti elettronici è tarata a 4,40, però per esempio ci sono dei musicisti che preferiscono un'accordatura un po' più su, per quale motivo? La richiedono è una domanda proprio molto complessa. È complessa perché non c'è una risposta. Sì, ci stanno sicuramente molte opinioni, ma non c'è una risposta certa. Allora, ti faccio ascoltare un pianista formidabile, forse uno dei miei preferiti, anzi senz'altro il mio preferito della nuova generazione, uno dei più amati. È un pianista versatile, ha suonato di tutto, dagli standard di jazz, era considerato proprio il talento nascente del jazz, adesso invece è una stella di prima grandezza della musica in generale, perché poi ha dimostrato di essere appassionato di musica e di poter suonare di tutto. È anche un bravissimo compositore. E qui ascoltiamo Brad Mehldau da una... Ti piace Brad Mehldau? Molto. Brad Mehldau, che poi è un musicista di jazz, ma con un tocco assolutamente da pianista classico, si sente nel tocco, c'è tutta quella preparazione. Si sente, sì. Quel background. Che c'è questa influenza, ma usato in modo completamente nuovo. Da musicista contemporaneo, insomma, è un maestro del genere. Qui lo sentiamo con Chris Thiele, anche lui eccezionale sul suo mandolino, e quindi mandolino e pianoforte in questa versione di Don't Think Twice, It's All Right, una vecchia composizione di Bob Dylan. Devo essere sincero, io non ho mai amato molto Bob Dylan, sicuramente i testi, però insomma proprio non è il mio genere, ma questa versione mi fa impazzire, te la faccio ascoltare. Soundcheck, il suono della musica, di Gegè Telesforo. Che composizione, che brano, una composizione della formidabile Rita Marcotulli, che abbraccio e saluto qui con Luciano Biondini, brano intitolato Vagabondi delle stelle, da un album di un paio di anni fa intitolato La strada invisibile. Questo è il Soundcheck di Radio 24, puntata dedicata al pianoforte, meraviglioso strumento importantissimo per tutti, strumento importantissimo soprattutto per il mio amico Thomas, perché lavora sui pianoforti come accordatore, lo fa da 40 anni e lo fa ancora oggi con grandissima passione. Io ti ringrazio intanto per il fatto di aver recuperato questo pianoforte, con il quale ho già fatto tantissimi dischi e che utilizzeremo in questa stagione del nostro Soundcheck per tutti gli amici pianisti che verranno a trovarci. E poi ti ringrazio anche per la partecipazione a questa puntata del nostro Soundcheck, perché io ti ho visto un po' timoroso, mi hai detto no, ma io devo accordare, no? Che mi fai fare la radio, e invece hai fatto la radio e sei stato bravissimo, Thomas, grazie. Grazie a te. No, hai raccontato delle cose che interessanti per tutti, anzi io vorrei approfittare e chiedere agli amici che hanno a casa un pianoforte di non utilizzarlo soltanto come mobile per metterci sopra mobili le fotografie, il candelabri e tutte quelle stupidaggini. Il pianoforte ha bisogno di suonare, di essere aperto ogni tanto, di essere spolverato, di essere curato, e a volte bisogna anche parlarci con gli strumenti, che è una cosa che io faccio quotidianamente. No? Quante volte ti sei trovato in casa e prima di aprire il pianoforte hai dovuto sparecchiare? Sì, capita. Capita, no? Sì. Beh, certamente tu lavori con i professionisti, quindi è difficile che a casa di Rita Marcotulli sul pianoforte trovi qualcosa. Ma lì c'è un po' di roba sempre, spartiti. A tonnellate. Certo, va bene. Senti Thomas, di solito nell'arco di una settimana quante accordature riesci a operare? Dipende molto. 10. Tante, perché se ti prende due ore, quindi insomma, anche perché tu ti devi muovere, no? In macchina. Certo, sono molti sposti. Tempi morti, spostamenti. Fa parte del lavoro. Count Basie lo dicevo sempre, non sono le 2 ore di concerto ma le 12 ore di autobus, pure per te non sono le 2 ore di accordatura ma il tempo che trascorri in macchina col borsone pieno di aggeggi. Ogni tanto lo dico a Bomarzi, no, che sta seguendo con attenzione. Esatto. Sono andato a spiare mentre lui accordava che cosa c'è nella borsa. Ci sono degli oggetti mai visti. Tra l'altro Thomas è uno dei pochi che ho visto accordare col diapason. Col diapason, quindi qui all'antica, sì. Veramente all'antica. Quindi sì. Non con l'accordatore elettronico. No. Ogni tanto. Ad orecchio, come si dice. Ad orecchio. Credo che ne ha un paio di diapason, almeno 2, giusto? Vabbè, basta uno. Poi c'è quello di riserva, sì. In caso si dovesse rompere quello. O perdere l'intonazione perfetta. Allora, io grazie Thomas per la partecipazione. Un'ultima domanda, grazie, te la posso fare? Sì. Fra i pianisti di musica jazz e quelli di musica classica c'è una differenza nell'approccio proprio con il pianoforte e anche con le richieste che ti fanno per l'accordatura? Sostanzialmente no, ma ho notato qualche volta che curiosamente un pianista di classica con un repertorio chiaramente che spazia da pianissimi a fortissimi è più, come dice, più logorante per lo strumento che un jazzista, che non so, mi viene in mente Antonello Salis, che sempre che fa violenza al pianoforte, ma il pianoforte lo sopporta molto meglio, molto, cioè pare che è una violenza più dolce in qualche modo. Me la devo segnare questa cosa, Bomarzi, ricordiamocelo. Una violenza dolce. Ecco, quindi quando verrà Antonello Salis e lo invitiamo e prenderà a pugni il mio pianoforte, non dobbiamo preoccuparci. No. Invece se chiamiamo Gilda Buttà, là ci dobbiamo preoccupare. Va bene, grazie Gilda Buttà, proprio perché abbiamo parlato di Rita Marcotulli e sono amiche e più volte hanno suonato insieme dei concerti di... a quattro mani strepitosi con due pianoforti, mamma mia che brave. Allora, chiudiamo questa puntata con un pianista che sta andando per la maggiore ultimamente, un pianista armeno giovanissimo, è nato nel 1987, cioè quando io andavo in onda con un programma chiamato Doc, questo ragazzo nasceva esattamente il 17 di luglio, armeno, ma oggi è famoso in tutto il mondo, concerti dappertutto, un bel repertorio discografico fatto essenzialmente di composizioni originali, ultimamente è venuto fuori con questo album intitolato An Ancient Observer e lui si chiama Tigran Amasyan e oltre a essere un pianista strepitoso è anche un formidabile cantante. Chiudiamo proprio con questo brano, il brano che dà il titolo a questo album, un'atmosfera molto particolare con la quale vi saluto e vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre qui dal Groove Master Studio a partire dalle 19:15. Grazie a Riccardo Bomarzi per la partecipazione, grazie per il lavoro voi, che sta facendo, grazie a Thomas Dillo, grazie, ti voglio bene Thomas, e adesso come sempre, perché grazie. Tradizione dopo l'accordatura, ci andiamo a fare un bel rigatone come piace a te, perché ogni volta io li devo fare i rigatoni a Thomas, che lo vedi? Ottimo cuoco, grazie va bene. Grazie a tutti voi, buona serata, buona musica, Tigran Amasyan al Soundcheck.